Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1862, al sud, proclami e repressione. Qui nel mezzogiorno questo 1862 è iniziato con una rivolta a Castellammare del Golfo, in quella Sicilia finora immune da ribellioni. Una rivolta che è durata 3 giorni. I rivoltosi hanno ammazzato il comandante della Guardia Nazionale, sua figlia, 2 ufficiali, hanno bruciato case e respinto i primi soldati accorsi. L'intervento dei bersaglieri del generale Quintini ha chiuso la faccenda, pare con centinaia di fucilazioni. In questi giorni, resi infuocati dalla preparazione dell'impresa per Roma da parte di Garibaldi, sarebbe un grave errore trascurare di sollevare lo sguardo per vedere cosa sta accadendo al mezzogiorno. Nonostante Torino abbia accresciuto in questi mesi gli effettivi militari, nonostante i bandi siano sempre più duri e le punizioni, addirittura le rappresaglie sempre più spietate, il Sud continua a essere in preda a una vera e propria rivolta, diffusa a macchie di leopardo. E parlare di briganti e brigantaggio, come ha cominciato a fare il governo, rischia di essere fuorviante. I fatti dei primi 6 mesi di questo 1862 fotografano la situazione. Gli agguati, gli ammazzamenti di soldati e notabili e dall'altra parte le esecuzioni di briganti e presunti tali si sono succedute. Il più attivo nella repressione è stato il colonnello della Guardia Nazionale a Cosenza, Pietro Fumel, che a Cirò ha emanato un bando impressionante. Io sottoscritto, avendo avuto la missione di distruggere il brigantaggio, prometto una ricompensa di 100 lire per ogni brigante, vivo o morto, che mi sarà portato. Questa ricompensa sarà data ad ogni brigante che ucciderà un suo camerata. Gli sarà inoltre risparmiata la vita. Coloro che in onta degli ordini dessero rifugio o qualunque altro mezzo di sussistenza o di aiuto ai briganti, o vedendoli o conoscendo il luogo ove si trovano nascosti, non ne informassero le truppe e la civile e militare autorità, verranno immediatamente fucilati. Tutte le capanne di campagna che non sono abitate dovranno essere, nello spazio di 3 giorni, scoperchiate e i loro ingressi murati. È proibito di trasportare pane o altra specie di provvigione oltre le abitazioni dei comuni e chiunque disubbidirà a questo ordine sarà considerato come complice dei briganti. Fumel ha praticato e pratica la repressione più spietata, fucilazioni sommarie, terrore contro cittadini inermi, persino torture. Lui stesso ha fatto sapere a Torino di aver fatto giustiziare 300 briganti e non briganti. Poi ha spiegato, in tempo di emergenza, la neutralità è un crimine. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.